A bordo campo di Dario Ricci. Prete. Vediamo, si riparte. 11 pari. Parte, parte del successo di Elisa, esce. Di Francesca. È lei la nuova campionessa olimpica. Il titolo rimane ancora una volta a Iesi. Allora, Elisa Di Francesca, su per giù, 2 mesi fa iniziano le Olimpiadi di Londra, perché ci stiamo come data, 25-27 settembre. Che ti ricordi di quella notte? Perché tu stavi davanti al televisore in stanza, sì. Valentina Vezzali col tricolore nello stadio olimpico, insomma una vigilia del tutto diversa per quella che sarebbe stata la gara del giorno dopo. Sì, eravamo in stanza io, Arianna e Enrico. Valentina è andata alla cerimonia d'apertura come alfiere, quindi noi la guardavamo lei e tutta quanta la delegazione italiana che sfilava comodamente, perché comunque il giorno dopo c'avevamo la gara e quindi insomma non è il trofeo della porchetta, è l'Olimpiade e quindi volevamo un attimo riposarci e guardare il tutto alla televisione. Anche quella fu una scelta diversa e particolare, no? Perché fino all'ultimo ci sarebbe stata chiaramente la possibilità di prendere parte alla cerimonia d'apertura. Tu già nei mesi precedenti avevi detto me la eviterei volentieri, vero? Sì. Sì, perché ci hanno detto che si partiva comunque verso le 8 e si tornava alle 2. Sinceramente il giorno dopo la gara alle 2, cioè le 2 le faccio le 2, però insomma in altre sedi, non prima della gara, e quindi rifiutai per quello. Se no sicuramente se dovesse capitare mi piacerebbe godermela e andare, perché comunque è un bel momento per tutti gli atleti. Anche in televisione ho visto le varie canzoni, insomma è stata un'emozione grandissima. Ecco, magari a Rio ci si può pensare, visto che comunque insomma un bel bottino già lo si è fatto a Londra. Sì, e poi a Rio l'ambiente sarà decisamente più carioca, diciamo. Che te lo perdi, insomma, no. Dai. Non... ma senti, pensi che quella scelta abbia in qualche modo poi influito, riflettendoci a mente fredda, su quella gara? Guarda Dario, secondo me tutto ha influito, nel senso che anche la mentalità con la quale sono andata a Londra, cioè io volevo far bene, volevo vincere, quindi non volevo andare a fare una scampagnata, nel senso comunque ho socializzato, ho parlato con le persone, però sono andata molto determinata lì con il mio obiettivo. 2 giorni prima della gara, ho fatto la gara individuale, dopo 4 giorni abbiamo fatto la gara a squadra e poi siamo ripartite, quindi è stato tutto molto, fortunatamente, molto veloce. Perché comunque è quello che volevo fare. Poi in altre vesti, magari se fossi stata, che ne so, la fisioterapista oppure un'altra, avessi avuto un altro ruolo, sicuramente me la sarei goduta diversamente. Però diciamo che me la sono goduta alquanto. Ho tempo poi per recuperare qualche festa. Questa solidità mentale ha stupito pure te? Perché in effetti è, cioè, un esordiente col peso anche del pronostico, perché il vostro fioretto sul podio deve arrivare, no? Altrimenti è tragedia nazionale. Avere questa freddezza di fronte a quei 5 cerchi forse può sorprendere anche te in prima persona. Sì, diciamo che io sono anche questa, cioè sono sia la persona divertente, scherzosa, che ride e che scherza, ma sono anche quella che è determinata e convinta verso i propri obiettivi. Quindi insomma era una qualità che conoscevi? Caspita, vedi che risposta seria. Ma e come la alleni questa? Cioè hai un supporto psicologico? Oppure molti atleti invece anche di alto livello preferiscono far da sé, no? Guarda, o ce l'hai o non ce l'hai, nel senso che è un lato del carattere mio che ho sempre avuto, fondamentalmente, sempre avuto cioè quello che voglio raggiungere prima o poi, anche se dovesse passare 1 anno, 2 anni, lo ottengo. Diciamo che io da l'Olimpiade è il sogno di ogni sportivo. Da Pechino 2008, quando mi rifiutai di andare comunque come sparring partner, quando il commissario tecnico Andrea Mago mi propose tutto, da lì capì anche che per me è importantissimo andare come titolare e andare per vincere. Partecipare è importante nel momento in cui perdi e ti vuoi consolare, insomma, però comunque per noi atleti siamo molto competitivi e tutto è importante, anche andare e fare, sapere di aver fatto tutto quello che potevi fare, che poi se vinci bene, se non vinci per altri motivi, perché dopo ci sono anche gli arbitri, insomma ci sono varie motivazioni, vari componenti, pazienza, però devi aver fatto tutto quello che devi aver dato tutto quello che potevi dare. Il fatto che in panchina ci sia Stefano Cerioni, che è il tuo maestro, credo anche dal punto di vista emotivo, psicologico, ti abbia dato maggiore sicurezza, maggiore fiducia, no, in questo percorso. Sì, Stefano è mio maestro da tantissimo, da sempre. Con lui ho un rapporto fantastico, quindi è molto importante avere lui in fondo pedana, mi ha dato molta serenità e poi è anche un mio grande amico, insomma ci troviamo bene, è una bella persona, e sia lui che anche Annalisa Coltorti, che è la mia preparatrice atletica. Chi l'ha visto in pedana a Seul o nella sua carriera fa fatica a immaginarlo oggi a tenere le briglie di una campionessa come te, perché pure lui era una bella testa calda. Sì, infatti lui che è stato così, insomma sa come... domarmi tra virgolette, no? Sa come trattarmi ed è cambiato molto da atleta, insomma da personaggio passionale, no? Istintivo e tutto, è diventato anche lui una persona molto matura, se no non sarebbe neanche stato in grado di gestire, soprattutto a parte me, ma un gruppo di donne, insomma, poi che caratterini, eh? Abbiamo visto come Arianna l'ha presa, sì, quella medaglia, sì, d'argento, che insomma lacrimoni per pronti aspetti, sì, anche comprensibile, ma insomma tempra della campionessa. Sì, abbiamo tutte e tre, ma anche Ilaria Salvatore, tutte e quattro comunque dei caratteri, delle forti personalità e dei caratteri molto forti, e quindi è difficile. Poi nella scherma ci troviamo davanti alla gara individuale, poi per esempio in Coppa del Mondo il giorno dopo la gara a squadre, quindi è deviante anche come so. Ma questa è quella che ho infilzato ieri o che mi voleva infilzare, sì. Tutto sommato oggi ci facciamo il balletto finale come Bravo, spesso capita. È difficile, però sta nell'intelligenza delle persone, riuscire a distinguere quello che è l'assalto di scherma con quella che è la vita normale, quindi anche questi giorni bisogna distinguere quello che sono le luci della ribalta con quella che è la vita normale. Le luci della passerella, ti ho visto anche in costume, un bel portamento, insomma. Vabbè, diciamo che è stato difficile, nel senso che mi sono vergognata alquanto, perché all'inizio quando me l'hanno proposto, sì, che bello, era estate ancora, no? Poi dopo, adesso che è venuto fuori l'inverno, insomma, cominciamo a coprirci tutti quanti, io in costume, un conto ci vai in spiaggia al mare per prendere la granita, no? Dal lettino al bar, è un conto, insomma sfili davanti a tutte le persone. Io mi ricordo che insomma ho fatto la passerella in modo molto veloce, non vedo l'ora che finisse. Sì. Si incrociano le dita per non scivolare dai tacchi, no? No, io invece andavo più veloce così. No, con i tacchi ci so camminare, alla fine sì, poteva succedere, però non era proprio quello il problema. Il problema era che è stato difficile, no, farmi vedere in costume davanti a tante persone. Insomma, obblighi di una campionessa olimpica. Senti, voglio correre, no? È la presentazione di questo libro. Che rapporto hai con la corsa tu? Perché quanto entra nel vostro allenamento? Perché tanto c'è di fisico del lavoro che fate, eh? Molti pensano che sia solo nella mano il segreto. No, c'è soprattutto prima di tutto di mentale e poi dopo anche di fisico. Ci alleniamo correndo con la preparazione atletica, corriamo al campo, abbiamo fatto, dipende dall'allenamento, poi dipende dal preparatore atletico, però io amo correre come amo andare in bicicletta. Amo lo sport in generale, nel senso che la corsa come la bicicletta o anche le lunghe camminate ti danno modo di innanzitutto sfogarti da quelli che sono, no, i ritmi frenetici di tutti i giorni, ma anche di pensare. Io penso molto sia quando corro che quando cammino, e questo insomma fa bene. E senti, ti chiedo ancora, tornate dal... Pensi che... No, perché dico, è vero, pure io da corridore spesso, anzi, faccio più fatica a correre perché i pensieri ti portano... Vai lo stesso, sì. No? Altro che metti la musica, che... Cioè, insomma, mi è capitato a Messina, ero in vacanza con mio padre, ho corso, c'era il lungo lago, ho fatto tutto il giro intorno al lago e mi sono ritrovata che non sapevo più dove fossi, ho detto pure a babbo, cioè, non è strano, perché comunque col fatto che pensavo, mi ritrovavo, quindi potevo correre come in Criceto, sì. Qua vedo appunto un pezzetto della famiglia, invasione di campo, è stata straordinaria quella a Londra, sì, quel salto sulla... Ho visto tuo fratello, tra l'altro mi stava anche a fianco, ho detto oddio, qua ci restano tutti. Sì, Michele è partito, ma mia sorella che si è fatta male al piede, cioè, nel infatti fare la conta dei danni qual è stata? Infortunati, sì, uno. Mia sorella è caduta e mio fratello è stato sbattuto fuori dopo da uno scagnozzo di Londra. No, però ne è valsa la pena, perché comunque l'avevo tutte e due lì, prima Stefano e poi loro due lì, quindi è stato importante. Peccato che i genitori miei non l'abbiano fatto, però quindi sarebbe stato difficile. Allenarsi col salto a ostacoli, visto l'andazzo, sì. Perché, senti, voglio correre, sì. E vuol dire anche porsi degli obiettivi, no? L'anno post-olimpico, che anno sarà per te? È anche un anno in cui voi medaglie olimpiche ve la giocate col calcio per conquistare spazio, visibilità? Finora come sta andando? No, guarda, a me Dario questo non interessa tantissimo, perché comunque in Italia c'è il calcio e la cosa forse più triste è che ci sia cose diverse, ci siano cose diverse da quello che è lo sport del calcio, insomma si è perso un po' l'interesse per lo sport e ci sono insomma molto spesso altre situazioni che vengono più fuori. Io voglio che la scherma, come il calcio speriamo e come tutti gli altri sport, rimangano sport e passione, insomma che si segua bene lo sport per quello che è, anche se poco comprensibile. Poi se diventa più famoso, se lo fanno vedere, questo è un bene per tutti, però ecco che rimanga sport. E senti, obiettivi agonistici, perché non è che si può festeggiare tutti i giorni, qua bisogna pure tornare in pedana, Stefano ti aspetta, pure Valentina per darti qualche puncicata, Arianna, insomma le lame sono affilate in quel di Iesi. Sì, certo, no, non vedo l'ora di ricominciare, i primi di novembre ricomincerò ad allenarmi e ci saranno gare di Coppa del Mondo, mondiali, campionati italiani, europei e tutto il tram tram fino a Rio 2016. Quindi Rio obiettivo confermato, perché uno vincendo a 30 anni, prima Olimpiade, potrebbe anche avere l'idea di non voler sporcare il palmarès, insomma. No. Per dire, no, nel senso, uno sapendo che tu pensi anche molto al di fuori della pedana, al tuo futuro. Sì. Beh, certo, ho degli obiettivi tra i quali anche la famiglia sicuramente, però finché mi diverto, finché mi piace, finché mantengo questa consapevolezza, questa voglia di vincere, sicuramente continuo. Voglio un grande abbraccio del pubblico della Mobile 1 Arena per uno dei più grandi campioni delle due ruote, un ragazzo che viene da Patti in Sicilia. Campione del mondo in carica motocross, Tony Cairoli! Domenica dei motori, quella di oggi qui a bordo campo su Radio 24, la MotoGP impegnata nel mondiale, Max Biaggi sempre più vicino al trionfo in Superbike, ma insomma in realtà nel mondiale che conta, quello di MotoGP, gli italiani fanno fatica a ritornare ai vertici e invece c'è un italiano che nel suo mondiale, quello di motocross, è ormai da diverse stagioni, da molti anni, compreso quest'ultimo, dominatore assoluto. E allora un vero piacere ospitare oggi a bordo campo Tony Cairoli. Benvenuto Tony. Ciao a tutti. Per chi non lo sapesse, sono davvero pochi, Tony Cairoli 6 volte campione del mondo di motocross tra MX1 ed MX2. Beh, se non sei un po' il Merx della motocross, poco ci manca, Tony? Dai, sì, diciamo, sono anni che piano piano siamo sempre, diciamo, nel top del mondiale motocross e quindi per me è una grandissima soddisfazione, ecco, crescere ogni anno è la cosa importante, ecco, per uno sportivo. Beh, si dice sempre che l'ultimo trionfo è quello che lascia magari il sapore più dolce, no? Allora quest'anno qual è stato il momento chiave di quest'altra stagione trionfale? Ma ci sono stati tanti episodi positivi, fortunatamente, soltanto uno negativo nel Gran Premio della Svezia, però diciamo è stato un surplassarsi, ecco, di soddisfazioni, ecco, quest'anno. Tra l'altro hai chiuso la grande, anche perché è successo anche in Germania con la 7ª vittoria consecutiva, no? Ottenuta nonostante un dito infortunato. Tra l'altro, ecco, come stai? Rassicuriamo un po' i tuoi tifosi. No, tutto bene, soltanto delle scoriazioni superficiali, ecco, mi hanno un po' condizionato un po' i primi giri di gara, dove quando ero abbastanza ancora freddo non mi ero riscaldato benissimo, quindi Dopo un po' tutto a posto e diciamo, non mi dava neanche più problemi, ecco. Quindi sì, 7ª vittoria consecutiva, quindi un bel record per me. L'ultima volta che ho fatto un rullino di marcia così era nel 2007, quindi è passato un po' di tempo. 27 anni di Messina, di Patti per la precisione. Beh, ma come si arriva dalla Sicilia sul tetto del mondo del motocross? Diciamo che è stato veramente difficile emergere, perché ovviamente il motocross non è la MotoGP, non sono altri sport che hanno tantissima visibilità e tantissimi sponsor al seguito. È una disciplina un po' a parte che adesso ultimamente sta crescendo tantissimo, però diciamo gli inizi sono stati difficili, ecco, però devo dire che ci sono tantissimi appassionati e diciamo a livello amatoriale anche in Sicilia ci sono tanti appassionati, ecco. Quindi mio padre e mio cugino erano appassionati e mi hanno diciamo inculcato questa passione. Team Yamaha sponsor Red Bull, dicevamo motocross che però affascina i campioni del moto mondiale, lo sappiamo tutti, Valentino Rossi è un grande appassionato e utilizza il motocross spesso anche per allenarsi, tra l'altro con esiti incerti perché ricordiamo che il grave infortunio alla spalla di un paio di stagioni fa era proprio stato causato da una caduta durante un allenamento di cross. Ecco, quali sono i punti di contatto, se non dal punto di vista tecnico, quantomeno anche dal punto di vista emotivo, psicologico, tra MotoGP e motocross, e in cosa l'allenamento nel cross può essere utile anche a un Valentino? Ma diciamo che il cross ti dà tantissima sensibilità con la moto, che diciamo ovviamente nello sterrato non c'è aderenza come ce l'hanno loro sull'asfalto, quindi c'è uno sport completamente diverso e ti aiuta più che altro nel controllo della derapata, nell'allenamento a livello fisico, perché diciamo, il cross è veramente è uno sport dove bisogna allenarsi tutti i giorni se si vuole stare al top, diciamo, è uno degli sport motoristici più faticosi, quindi anche per loro si tengono in forma così. Tra l'altro Valentino, destinato come sappiamo a lasciare la Ducati a rientrare proprio in Yamaha, ti ha chiesto anche qualche consiglio, qualche suggerimento proprio nell'ottica di leggere la moto? Ma no, sinceramente no, lui ovviamente è un grandissimo campione, ha avuto questo passaggio in Ducati dove ovviamente non si è espresso al meglio, però torna su una moto dove ci ha vinto e ha fatto appassionare tantissimi italiani, vincendo tantissime gare. Che cosa ti aspetti da questo ritorno? Ecco, pensi che riuscirà a tornare il Valentino che conosciamo, oppure effettivamente tra carta d'identità e disabitudine al successo potrebbe essere un ritorno a casa un po' più difficile? Sicuramente tornerà competitivo e farà vedere che ancora può dire la sua in tantissime occasioni, quindi speriamo, anche perché essendo un tifoso suo spero che torni ai vertici. Ma visto come sta andando è lui che deve chiederti l'autografo, sì, ultimamente sta andando non benissimo, però se lo sappiamo tutti il campione che è, quindi tornerà sicuramente ai vertici, siamo sicuri. Sappiamo anche che campione sei tu, ammirato e apprezzato in Italia, direi addirittura osannato nei paesi del nord, soprattutto Belgio e Olanda, dove il motocross è una vera e propria religione, vero? C'è una grandissima tradizione. Come nasce? Sì, Belgio e Olanda sono è la patria del cross, è uno sport nazionale, uno sport molto seguito, tantissimi appassionati. In Italia è poco seguito, è poco, purtroppo speriamo che migliori anno dopo anno, qualche miglioramento si intravede, però speriamo vada ancora in crescendo. Sì, in Belgio loro hanno avuto sempre dei campioni campionissimi da quando, ormai da anni che sono su anche loro al vertice delle classifiche, quindi è molto molto seguito come sport. Secondo te cosa manca un po' per renderlo più popolare in Italia? Secondo me è una questione di politica, di portare avanti uno sport che è quello del calcio, che ormai conoscono tutti, e le televisioni ce lo fanno vedere 48 ore su 48 ore. La gente non segue il cross proprio perché non neanche sa dell'esistenza, magari la maggior parte, di uno sport che ti appassiona tantissimo, e quindi non lo segue per questo, perché se viene trasmesso sono sicuro che la gente si appassiona, perché è uno sport fantastico. Anche perché non c'è solo Tony Cairoli con quel popò di palmarès che abbiamo ricordato, ma da quest'anno abbiamo anche una campionessa mondiale di motocross, Chiara Fontanesi, no? Che giovanissima, 18enne, già sta in qualche modo ricalcando le tue orme, no? Ah, sì, che quest'anno è stata per l'Italia del cross è stata una buona annata, abbiamo due campioni del mondo, super contenti, speriamo adesso che qualche televisione in più ci dia più spazio e ci faccia crescere. Beh, insomma, pure un po' di radio, che vedi, Radio 24 subito in moto con te è venuta. Grazie. Senti, Tony, ringraziandoti, immancabile la domanda sui progetti futuri. A 27 anni, con 6 titoli di campione del mondo già nel palmarès, si potrebbero anche perdere le motivazioni e pensare a qualcos'altro. Invece, ecco, a brevissimo, cosa è nei tuoi piani, cosa è nel tuo futuro? Ah, il mio obiettivo è quello di far crescere il cross, diciamo il motocross in generale, in Italia e in Europa, perché diciamo meritiamo molto di più di quello che facciamo, e quindi mi sto impegnando anche in prima persona, diciamo, per fare un sacco di eventi e un sacco di opportunità per farlo vedere di più, ecco, per cercare di avere più, diciamo, più attenzione, ecco. Stiamo riuscendo piano piano, speriamo di continuare così e farlo crescere piano piano ogni anno. E allora, Tony Cairoli, in bocca al lupo anche per questa ennesima sfida. Facci un po' di spazio sul sellino, perché da oggi anche gli ascoltatori di Radio 24 e A Bordo Campo sono a bordo con te. Grazie tante, perfetto. Saluto a tutti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet, dialogare con noi attraverso il nostro blog, sempre sulle nostre pagine web, e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.30. Una buona giornata da Dario Ricci.